5D. Ascolta e rispondi. Possiamo fotocopiare il libro? Sì, potete. Possiamo fumare qui? Sì, potete. Possiamo tenere il gatto in appartamento? Sì, potete. Possiamo prendere la macchina? Sì, potete. Possiamo usare il dizionario? Sì, potete.